Ciao piccolina, fragile bambina, ti hanno derubato l'infanzia. Sei nata appena ieri, in ginocchio eri, con la bocca piena d'amore. Tu sai bruciare le tappe con quegli atteggiamenti da grande. Tu sai fumare e alcolizzarti, bestemmiando ci guardi. Tu sei quello che rimane di un amore pedofilo deficiente. Tu sei sfogo di piacere per quei grandi maiali pedofiliaci. Yeah. Ciao piccolina, ti sveglio ogni mattina con la bocca piena d'amore. Obbligata a dare, non puoi rifiutare, hai un'immensa cultura penale. Entri in competizione con chi ti dà lezione. Tu sai attrarre ogni attenzione da chi può avere cattiva intenzione. Per quei grandi maiali pedofiliaci.